Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Signore e signori, il capitano comunica che abbiamo raggiunto la nostra quota di crociera. Ci auguriamo che il film sia di vostro gradimento. Mi scusi, potrei avere un paio di cuffie? Sono subito da lei, signore. Poi lui. Scusi, chiedo scusa, mi potrebbe dare un paio di cuffie? Non alzi la voce con me, signore. Io non sto alzando la voce. Ok, stia calmo. Sono calmissimo, vorrei soltanto le cuffie. Ci sono problemi, signore? No, nessun problema, è che vorrei... Signore, cerchi di calmarsi. Sono calmissimo, che cosa vi rode a voi altri? Vuole ripetere? No, voglio dire, insomma, a voi altri, che cosa vi rode? Senta, si calmi. Sono calmo! La rabbia la conosciamo tutti per esperienza, diretta e indiretta. Una delle emozioni più precoci, lo sappiamo, ci arrabbiavamo anche quando eravamo piccoli, quando la mamma non ci dava retta, puntavamo i piedi, segnalavamo urlando e piangendo il nostro disappunto. Bene, la rabbia però in realtà non è mai giusta o sbagliata, esiste? Bisogna, come si dice, prenderne atto, comprenderla, gestirla al meglio, trovare il modo, perché reprimerla può nuocere alla salute psicofisica. Esternarla può avvelenare i rapporti, le relazioni, inquinare l'ambiente in cui viviamo. Quindi, insomma, bisogna cercare di trovare l'equilibrio, riconoscere e metabolizzare. Oggi qualcuno o qualcosa vi ha già fatto arrabbiare, sono le 11:10 e quando vi arrabbiate, che fate? Esternate o sopprimete? E che cosa succede dentro di voi? Che cosa si muove? Dove la sentite? Mi so magna del fegato e me lo magno ancora, ogni volta che ripenso che tu sei la mia signora. Chissà quante volte l'abbiamo detto, quante volte l'abbiamo sentito dire, vogliamo dircelo ancora? 800 24 0024, come sempre potete scriverci al 349 238 6666, seguirci su Facebook e su Twitter o mandarci come sempre un'email. In linea con noi abbiamo il dottor Federico Bertuzzi, endocrinologo all'ospedale Cagranda di Milano. Buongiorno dottore, bentornato, grazie. Buongiorno a tutti. Dottor Bertuzzi, modi di dire hanno sempre un fondo di verità. La rabbia, specie se rimuginata, non espressa, avvelena la nostra vita, le nostre relazioni, ma, questo lo chiedo a lei, davvero può avvelenare il nostro fegato? Si dice mi mangio il fegato dalla rabbia, mi rodo il fegato dalla rabbia, mi sono talmente arrabbiato che mi è venuto un fegato grande così. Diciamo che il fegato è un organo molto importante nel nostro corpo, è un po' la sede dove avvengono tutte le reazioni che interessano gli zuccheri, le proteine, i grassi, cioè i componenti della nostra alimentazione e i componenti anche del nostro corpo. Però il fegato ha anche un'azione di purificazione del sangue, un'azione quindi disintossicante, quindi si può dire che in qualche modo uno stress psicofisico responsabile, quindi di uno stress metabolico, potrebbe avere delle ripercussioni anche a livello epatico. E poi sappiamo, dottor Bertuzzi, che si dice anche verde di rabbia, verde di bile. Sì, certo. Quando un paziente, si dice, diventa itterico è perché c'è un problema di scarico, di eliminazione in modo efficiente della bile, che è quindi il principale prodotto del nostro fegato. Con l'invidia non c'entra, neanche con la rabbia. Diciamo che, come ho detto prima, uno stress metabolico sì, può avere un effetto anche a livello epatico. In realtà poi il problema va anche inquadrato un po' a livello di tutto il sistema intestinale, quindi la stress può essere responsabile di alterazioni del colon, la colite spastica ad esempio, il colon irritabile, può dare problemi di gastrite, quindi in qualche modo lo stress comunque è un principale determinante della funzione del benessere del nostro intestino e del nostro fegato. 800 24 0024. Se siete arrabbiati e volete parlarne con noi, se volete raccontarci come gestite la rabbia, che effetto ha la rabbia su di voi, sui vostri pensieri, sulla vostra vita, sul vostro corpo, Se invece siete capaci di gestire la rabbia, siete persone che sono riuscite a riconoscerla e gestirla, io vorrei che voi mi passaste la vostra ricetta, ma potete parlare con noi del vostro fegato, che sarà sicuramente un fegato allegro, sereno, pieno di energia. 800 24 00 24. Tony, una tazza di caffè? No, grazie, signor, c'ho il fegato malato, non lo posso pigliare, grazie. Vincei. Io non ce la faccio più. Io ci sono venuto apposta qua nella stazione. E poi invece si è trasformato in un incubo. Tutti quei treni che passavano, che passavano, che passavano. Ma ci fate un bello caffè, eh? Caffè. Vabbè, signor, datemi la metà. Grazie. Tony, devo un po'. Per carità, è belino. Tengo tutti il fegato spappolato. Non lo posso pigliare. Dottor Bertuzzi, allora la rabbia fa poco al nostro fegato, almeno per la medicina occidentale, più lo stress, insomma, tanto che noi lo avvertiamo nella pancia, ma il fegato, lo sappiamo, ha altri nemici. A proposito, il caffè. I principali nemici del fegato sono i grassi nella nostra alimentazione e l'alcol. Sì. Modiche quantità di alcol possono essere assunte senza problemi. Un abuso di alcol è uno dei nemici principali del fegato, responsabile proprio di un danno che se diventato cronico può portare proprio alla cirrosi epatica, cioè all'insufficienza del fegato. E poi noi ricordiamo anche i grassi, come ho detto prima, perché sono responsabili proprio in alcuni pazienti di un infarcimento di grassi all'interno del fegato, la steatosi epatica, che anche in questo caso si traduce nel tempo ad una serie di danni. Quindi la steatosi epatica, che significa il fegato grasso, perché il fegato, può diventare grosso e grasso. Come sta il vostro fegato? 800 24 00 24. Il fegato è il generale delle armate. Da lui dipende la disposizione degli eserciti nel corpo. Rappresenta la preveggenza. Come un comandante dell'esercito, deve pianificare, disporre le proprie armate. Deve essere coraggioso, ma non imprevidente. Deve avere una radice forte che gli permetta di giungere fino ai luoghi più lontani. Impetuoso, non deve divenire collerico. Da lui dipendono i sogni, la fantasia e la leggerezza della vita. Commento al capitolo 8 del Su Wen, IV secolo avanti Cristo. E saluto qua in studio con me il dottor Marco Maiola, medico, agopuntore, docente di agopuntura alla scuola Su Wen di Milano. Buongiorno, dottore. Allora, i cinesi, dottor Maiola, ci avevano visto lungo, perché in tempi non sospetti avevano già aperto la strada a quella che oggi noi chiamiamo medicina psicosomatica, che ci insegna e ci aiuta a considerare soma e psiche non come due realtà distinte, ma come due facce della stessa medaglia. È vero? Assolutamente. Buongiorno innanzitutto a lei, radioascoltatori. La medicina cinese ha come paradigma principale quello della visione olistica dell'individuo, cioè psiche e soma non solo sono uniti nell'insieme, ma rappresentano solo diversi livelli di osservazione. In realtà, quindi, quando parliamo di fegato, noi non intendiamo, io sono un collega, quindi, del dottor Bertuzzi, non intendiamo esclusivamente quell'organo localizzato nella regione sottodiaframmatica, ma in realtà la medicina cinese attribuisce uno psichismo agli organi, molto anche in modo cosa simbolico. Cosa vuol dire psichismo? Psichismo che gli organi hanno le emozioni? Gli organi hanno le emozioni. Sì, come medico indubbiamente è un'affermazione abbastanza forte, però andrei a sottolineare più che questo tipo di relazione, l'aspetto proprio di relazione tra ciò che sono i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre emozioni, e quello che i nostri sentimenti e le nostre emozioni inducono nel favorire un buon funzionamento nel nostro corpo o invece nel favorire una malattia come per esempio il colon irritabile, come diceva il collega, una cefalea, un algomenorrea. Per cui voglio dire, mi roddo il fegato dalla rabbia, è più cinese che occidentale. Assolutamente sì. Vorrei sottolineare un aspetto. Il movimento che diceva prima è un movimento fisiologico, cioè è normale che le persone sentano questo movimento di energia, che tutti localizzerebbero a partenza dalla pancia, è un movimento verso l'alto e verso l'esterno. La collera tutti la definirebbero con questo tipo di direzionalità. Teniamo presente che la correla è un movimento patologico anche per la medicina cinese, cioè non bisogna essere collerica. Nella frase che abbiamo inserito adesso in trasmissione, in realtà si dice proprio questo: il movimento è corretto, quando il movimento è troppo accentuato diventa patologico. Quindi un movimento verso l'esterno, verso l'altro, verso l'alto, verso anche l'attività fisica, che può essere quindi un aspetto legato al fegato per la medicina cinese, va benissimo. Non deve essere troppo accentuato, perché questo causa una patologia nel nostro corpo. Abbiamo già in linea i nostri ascoltatori, mi piacciono, 800240024, abbiamo Giovanna dalla provincia di Milano e Marco da Pordenone. Giovanna, buongiorno, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, grazie. Senta, io volevo raccontare un po' sul sentimento della rabbia, sentimento io lo chiamo emozione. Perché allora io ho avuto una bruttissima separazione con un altrettanto brutto divorzio e niente, stavo malissimo, per cui ho dovuto rivolgermi da uno psicologo e niente, però quando mi chiedeva ma tu senti rabbia, io ad essere sincera non sono mai stata arrabbiata con il mio ex marito. Ultimamente, diciamo, a distanza di 8-9 anni dalla situazione, ho avuto una reazione che non verso delle persone strane, naturalmente, in una situazione banale di fila, la posta, di problemi, cioè problemi di tutti i giorni, e ho reagito in una maniera molto aggressiva che non mi riconoscevo. Non ti riconoscevi. E lì ho detto, ma perché io faccio questa cosa? E per cui sono tornata dal mio psicologo per lavorare su questo problema. E infatti, cioè, io ci ho messo in effetti 8 anni per essere arrabbiata e sono stata male fisicamente tanto male al punto che non riuscivo più a camminare. E niente, al di là dei problemi proprio anche di stomaco, intestino, fegato. Quando si somatizza, dottor Maiola? Allora, ci sono due momenti da sottolineare rispetto a quello che ci dice la radioascoltatrice. In realtà una prima fase richiama un altro movimento, che è quello della terra, ossia la capacità di metabolizzare, di digerire. Come dicevo, la medicina cinese ha un approccio psicosomatico globale. Digerire su un piano fisico, materico, come facciamo con gli alimenti, equivale su un altro piano a digerire ciò che ci è accaduto, magari una separazione difficile come quella che ha vissuto la radioascoltatrice. Questa è una prima fase e lei l'ha fatta, l'ha portata avanti nel tempo con l'aiuto dello psicologo. Il fegato e la rabbia che ha avuto è un'esplosione, diciamo, successiva. Io, se ho un attimo di tempo, vorrei dare un'immagine semplice, che è quella della pentola a pressione, che sembra una cosa del nostro quotidiano un po' strano. Il fegato richiama un po' questa modalità. La pentola a pressione è qualche cosa che ha bisogno ogni tanto di sfogare attraverso la valvola. Quando dicevo prima, è importante avere un movimento fisiologico normale, naturale, nel canalizzare questo tipo di energia che tutti abbiamo dentro, questo è importante, perché se la teniamo dentro a un certo punto esplode nel momento sbagliato, forse per un piccolo stimolo la valvola sfoga, magari in posta, in coda, quando invece la reazione è sproporzionata. Se ci fosse stata una canalizzazione precedente a questo evento, probabilmente questo episodio, anzi sicuramente questo episodio o successivi episodi non si sarebbero verificati. Dottor Bertuzzi, lei che dice, spesso quando reprimiamo la rabbia, ci sono dei momenti della vita in cui ci sentiamo arrabbiati e non sappiamo neanche individuare precisamente la causa di questa nostra arrabbiatura. Il dottor Maiola diceva che faceva il paragone della pentola a pressione, ma noi ribolliamo dentro e poi sbottiamo. Ma dottor Bertuzzi, lei come endocrinologo mi conferma che ci sono delle situazioni, dei malesseri, delle vere e proprie malattie che vengono slatentizzate proprio dai momenti in cui abbiamo la rabbia dentro, che poi la tratteniamo e esplodiamo in occasione di piccole cose, è un'altra cosa, ma è vero? Ci sono alcuni studi che mettono proprio in relazione il nostro sistema della ghiandola surrenalica, quindi con la produzione di cortisolo, che è anche un'azione di modulare un po' il sistema immunitario proprio con l'insorgenza di alcune patologie, per esempio alcune patologie autoimmuni. E quindi come se in qualche modo un'alterazione della funzione di questa ghiandola, come indotta da situazioni di stress, possa in qualche modo favorire proprio l'insorgenza di alcune patologie. Alcuni studi molto recenti hanno individuato una relazione anche addirittura con alterazioni della flora batterica intestinale come causa di alcune malattie autoimmuni. Quindi effettivamente l'idea di vedere un po' l'organismo come nel suo insieme, in cui tutte le parti contribuiscono poi al funzionamento generale, è un'idea che condivido pienamente. Allora, se la rabbia avvelena la vostra vita e il vostro fegato, chiamatemi, perché si può fare qualcosa per limitare i danni. Se invece la rabbia sapete già gestirla, datemi notizie del vostro fegato, perché la puntata direi è propizia. 800 24 00 24. Basta! Ah! Basta, lo dico io qua! Non volete capire che il capo di questa famiglia sono io? È tutta addosso a me, è tutta addosso a me, pure le torte! Io la devo rompere una torta, se la voglio rompere, io! Non voi! E questa pensa alla casa, questa pensa alla casa, a me chi pensa? Io non ho più 20 anni! Io voglio stare solo una volta in questa casa, con i bambini e basta! Porca miseria maledetta! Lasciatemi solo una volta! Lasciatemi solo! Dove nasce la rabbia? Secondo la medicina occidentale, dottor Bertuzzi, forse nasce nel cervello. Sì, è in qualche modo è legato il cervello con il sistema endocrino, perché il cervello controlla la ghiandola che dicevo prima, quella surrenalica che produce il cortisolo e che è l'ormone dello stress. Quindi cervello legato poi al sistema nervoso periferico e alla ghiandola surrenalica che produce gli ormoni che si attivano in caso di stress. Quante relazioni, ma per la medicina cinese dove nasce la rabbia? Questa... Ma in realtà mi ricollego proprio a quello che diceva il dottor Bertuzzi adesso. È simpatico ricordare quanto nella medicina cinese il fegato abbia relazione con il rene. Si dice in medicina cinese che il fegato è figlio del rene, cioè che il legno è figlio dell'acqua. E quello che sottolineava, cioè del cortisolo, la reazione allo stress, è esattamente un aspetto della medicina cinese che richiama lo yang di fegato, quello che noi chiamiamo lo yang di fegato, che è quel movimento di fuoco, di eccesso che va a colpire il fegato nel suo patologico. Quindi se è vero che chiaramente c'è una distanza, e come medico la vivo molto, molto bene, questa la vedo molto bene questa distanza, ci sono poi delle risonanze, sì, dei punti in comune che legano per esempio il rene al fegato, ma nella medicina cinese, per rispondere alla sua domanda, in realtà nasce proprio dal fegato, dalla zona sottodiaframmatica, questo movimento di energia che, come dicevo prima, prima va verso l'alto e poi va a colpire un po' gli organi, magari un po' più deboli delle persone. Allora, nasce nella zona sottodiaframmatica o per la medicina occidentale nel cervello? E comunque abbiamo visto che ci sono delle relazioni. Noi la sentiamo nel cuore, perché quando ci arrabbiamo facciamo stare male le persone che sono vicino a noi, la persona con cui ci arrabbiamo, ma stiamo male dentro anche noi. Avvelena forse il nostro fegato e irrigidisce i muscoli che entrano in tensione e a volte in tensione ci restano, proprio per sottolineare gli effetti a catena che la rabbia produce in noi. E poi sono dolori. Qua in studio con me è stato in silenzio sino ad ora il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Quando siamo arrabbiati siamo contratti, siamo tesi e alla lunga questa situazione produce malessere. Bisogna sciogliere queste tensioni, possiamo farlo lavorando sul corpo, su soma, con piacevoli ricadute e benefiche, direi, ricadute su psiche. A volte, professor Tirelli, basta una parola per farci arrabbiare, per accenderci. Ma oggi lei ci insegnerà che basta un dito, o meglio una pressione, per ritrovare la calma, la lucidità, la serenità, per fare quello che le nostre nonne dicevano: prima di arrabbiarti conta fino a 10. Certo, è indiscutibile il fatto che chi si arrabbia è generalmente sicuramente più contratto da un punto di vista muscolare, e su questo non ci piove. Proprio per questo, sia da un punto di vista atletico, ma anche nella normalissima così attenzione che si può avere nei confronti delle persone che presentano stati di collera, di ira persistente, è utile suggerire loro degli esercizi, soprattutto per esempio di allungamento muscolare, di stretching, di cui poi parleremo, e poi ci sono anche dei punti di digitopressione che sono molto utili proprio perché tendono ad allentare quelle che sono le situazioni da contrattura, in questo caso non antalgica, non a dolore, ma da contrattura direi proprio psicosomatica. Possiamo già accennarne uno, c'è un punto molto importante tra la clavicola e la scapola che si trova molto facilmente prendendo con la nostra mano la base della spalla. Si sentirà proprio una depressione formata dall'osso clavicola, quello davanti a livello pettorale, e la parte posteriore della scapola. In questo punto di depressione proprio c'è il punto grosso intestino 16, che è importantissimo per allentare le situazioni da contrattura miotensiva della nuca, che è una delle zone più frequentemente interessate alla rabbia. Chi è arrabbiato si rigidisce a livello soprattutto della nuca, alla parte cervicale, nella parte degli adduttori. Vedremo poi degli esercizi importanti per allentare gli adduttori, perché causano frequentemente stiramenti, strappi, pubalgie e situazioni di contrattura anche dei paravertebrali, soprattutto nella parte dorsale. Queste sono le zone bersaglio della rabbia. Infatti, come si chiamano questo muscolo qua? Il trapezio è sul proprio... Il trapezio viene chiamato anche in francese pubelle de l'âme, sì, perché lì vanno a finire tutte le schifezzuole, sì, tutte le tensioni, tutte le ruggini che noi non digeriamo o digeriamo male. Sì, sì, il trapezio è proprio il muscolo per eccellenza che ci dice quanto siamo sotto stress e quanto è la forma di rabbia, di collera che stiamo vivendo. Abbiamo tempo di sentire Carmelo? Sì, dai, veramente mi tratta benissimo, mi dice un minuto. Ma Nicola da Modena, buongiorno. Nicola? Nicola è sparito, proprio Nicola. Vabbè, allora non mi allargo con Marco da Pordenone e Elena da Milano. Ci sono? Marco, buongiorno. Sì, io ci sono, buongiorno. Marco, grazie, vede che lei è una garanzia. Sì, anche perché è la quarta volta che ci sentiamo, quindi. Ah, bene, allora possiamo andarci del tu, Marco. Sì, allora io praticamente 2 anni fa ho perso il lavoro e da allora è uno stress continuo. Immagino. Ho colpito prima il colon, poi il fegato e adesso c'ho proprio cervicali e trapezio che sono un piacere da qualche mese. Sono duri come il legno ormai, a forza di essere contratti. A proposito di legno? Mm. Sì. E faccio il massaggio dove ha detto il medico prima, che proprio intanto che parlava ero lì che mi stavo mettendo la mano sulla schiena per capire se è proprio dove massaggiavo io quando sono nervoso. E funziona? Quello... Sì, sì, funziona in pieno, benissimo funziona. Come sistema di valvo di sfogo, per riallacciarmi a quanto diceva il professore prima, io sono appassionato un po' di cultura orientale, cinese, meditazione zen. Io quando sono tanto nervoso mi concentro qualche secondo e poi devo scaricare la rabbia su qualcosa, devo spaccare qualcosa che ho lì vicino, schiacciare qualcosa che ho lì vicino, può essere non so, una lattina per dire, mm-hmm, devo incanalare tutta la cattiveria che ho in quel momento su qualcosa. Per scaricarla? Prima la carico per un... Sì, come si dà la molla, secondi, la carica? Esatto, la carico, poi devo colpire con forza questa cosa qua. Mm? E dopo mi ritorno abbastanza normale. Quindi si scarica in questo modo. Professor Tirelli, dobbiamo andare ai mercati. Grazie Marco che sei intervenuto, è una buona idea. Possiamo suggerire questo esempio? Vedremo dopo come sarà utile scaricarla o attraverso un movimento dinamico o un movimento statico, dipende dalla tipologia. Speriamo che il professor Tirelli non la scarichi su di me facendo qualche esempio. Essere e benessere. Allora, David, raccontaci un po' di te. Tu chi sei? Beh, sono un impiegato di concetto in una società di prodotti per animali da compagnia. David, non voglio che tu ci dica cosa fai, voglio che ci dica chi sei. Ah, va bene. Sono una persona per bene e mi piace giocare a tennis ogni tanto. No, scusa, non ci dire i tuoi hobby. David, è una cosa semplice, dici chi sei. Perché non mi dà lei un esempio di quella che sarebbe una risposta adeguata? Io sono un ragazzo tranquillo, pacifico, magari un po' indeciso certe volte, ma... David, tu stai descrivendo la tua personalità e io voglio sapere tu chi sei. Io non capisco che cavolo vuole che dica. Ingoiare il rospo o sputare il fuoco? Meglio reprimerla o liberarla? Voi che dite, soprattutto che fate? Germano ha scritto: io sto trovando giovamento attraverso la terapia con panca di inversione, praticamente appesa testa in giù per 10 adesso aspettate che vado a vedere perché mi devo la, per 10 minuti ecco al giorno. Professor Tirelli, sono tanti gli ascoltatori che ci scrivono, ad esempio Patrizia mi dice che dopo che è arrabbiata si fa una dormita eccezionale e sta meglio. Lei ha suggerito di toccare un punto che però molti ascoltatori, io ho avuto la fortuna di vederlo qua davanti, ma non hanno centrato. Allora, immaginiamo di prendere la mano sinistra, di guardarla, e appoggiamo le dita lungo il muscolo del collo, quindi lungo tutto il trapezio, va bene? Adesso col quinto dito, quindi col mignolo, scendiamo e sentiremo necessariamente che ci sarà un incrocio di due ossa. In quel punto, verso quindi il braccio, stiamo sulla spalla ma verso il basso, sentiremo una depressione. Schiacciate quella depressione e vi farà male perché è un punto di accumulo. E poi una cosa importante, l'ascoltatrice che diceva che dopo la rabbia si fa delle grandi dormite, è proprio vero, perché è come quando suggerisco ai collerici di fare molto movimento, attività fisica, dopodiché succede che lo stato ormonale è in buona condizione e necessariamente si ha desiderio di fermarsi, di rilassarsi, di dormire, è la stessa cosa. E reprimerla o buttarla fuori? Sentiamo una ricerca. Far buon viso a cattivo gioco? Buttarla sullo scherzo e minimizzare? Oppure reagire distinto, sfogarsi e urlare? Secondo una ricerca tedesca, il temperamento latino, che accomuna italiani e spagnoli e si concretizza in un carattere focoso che reagisce agli insulti e alle critiche, avrebbe come vantaggio quello di allungare la vita e di ridurre il rischio cardiovascolare e tumorale. L'ipotesi, che fa parte di uno studio tedesco pubblicato su Health Psychologies, parte dal confronto tra il carattere British, più diplomatico, meno incline a mostrare emozioni negative, e quello mediterraneo, che invece è più acceso. Secondo i ricercatori, parte della longevità di spagnoli e italiani, vivono 2 anni in più dei britannici, si deve proprio a questo atteggiamento meno propenso a reprimere le emozioni negative. Lo hanno constatato studiando lo stato di salute di 6.000 persone. Coloro che tendono a ingoiare il rospo hanno livelli di ansia e di pressione arteriosa più alti. Allora, British o latini? Dottor Bertuzzi, due situazioni diverse, due modi diversi di gestire l'emozione e la rabbia, e anche che si traducono in anni di vita. Sì, questi dati sono effettivamente noti da tempo, cioè il ruolo che uno stile di vita ha nella longevità di una popolazione, stile di vita che vuol dire non solo una dieta corretta ma anche proprio valori di pressione corretti e quindi anche riuscire a gestire la propria vita con un po' di attività fisica evitando le situazioni di stress. Questo è un dato che effettivamente ormai è consolidato, lo stile di vita è uno dei principali determinanti dello stato di salute di una popolazione. Il fegato, tornando al nostro fegato, nella lettura cinese e occidentale, è una persona, se fosse una persona, l'abbiamo detto tante volte, sarebbe una persona misurata, che non ama gli stravizi, che ama mangiare bene, e tutto questo, infatti, lo stile di vita regala energia al nostro fegato. Aggiungerei, è una persona che comunque come caratterialità è una persona reattiva. Non è negativo essere reattivi, è un movimento, ripeto, fisiologico e naturale. Bisogna imparare a canalizzare, conoscendo e indirizzando quindi questo tipo di energia, che è comune più o meno a tutti, negli ambiti che sono più consoni. Il professor Tirelli parlava prima dell'attività fisica, così come anche il collega Bertuzzi, e questa è una modalità. Bisogna tenere presente, come parleremo poi sicuramente, l'aspetto alimentare, perché la rabbia repressa, come indicava giustamente il lavoro di cui avete parlato, poi va a colpire organi in vari settori del corpo, che possono essere l'altoconcefalea, che possono essere problematiche gastrointestinali, che possono essere problematiche ginecologiche. Ed è bello, sì, come la medicina cinese, attraverso il lavoro con gli aghi sulla loggia energetica del fegato, eviti in qualche modo, con le dovute chiaramente precisazioni, perché l'aspetto medico è fondamentale, il paziente di vagolare per vari specialisti per curare i sintomi che poi rispondono a una causa medesima, quindi cercare di andare alla radice del problema, cercando di sciogliere la tensione che è a monte di questi problemi. E per la medicina cinese il fegato è responsabile di una serie di disturbi che riguardano ad esempio anche l'insonnia, tanto che c'è un'ora in cui ci svegliamo che proprio voi dite è l'ora del fegato. L'ora del fegato, che è dalle 1 alle 3 di mattina, che è abbastanza tipico, perché questo movimento di energia verso l'esterno, le persone quando dormono hanno bisogno di rientrare all'interno, di rientrare nel loro yin, nel loro aspetto più intimo. Il fegato ha un movimento, come dicevamo prima, contrario. Se questo è in eccesso, disturba il sonno. E andiamo a Nicola, che ci chiama da Modena. Nicola, buongiorno. Sentite? Sì, adesso sì. Prima salve. L'avevo chiamata, chiama, e Nicola non c'era. Ho provato a rispondere, ma sono arrivato tardi. Vabbè, andiamo dai, sentiamoci così. Allora, Nicola. Salve. Rabbio, fegato o il... No, fegato. Io ho ascoltato prima il dottore cosa ha detto. Io è un po' di tempo che ho una patologia al fegato. Mi chiedevo se oltre alle transaminasi, quindi le GOT e le GPT, per essere chiari, quando uno va a prendere le analisi, sì. Chi è malato al fegato sa già che guarda le GOT e le GPT, sì. per un eventuale epatite, epatopatia, eccetera. Ci sono solo quei due indicatori o secondo il dottore ci sono altri indicatori? Ce ne sono altri importanti da tenere d'occhio? Per sapere la condizione del fegato? Questa era la mia domanda chiara, semplice. E piacerà molto al dottor Bertuzzi, lo invita a nozze. Allora, direi che la bilirubina totale e frazionata dà un'indicazione della funzionalità del fegato ed è un esame che va aggiunto alle transaminasi che ha citato precedentemente il paziente. E aggiungerei anche le gamma GT, che è un indice di colestasi, cioè di quanto di come è regolare il processo di secrezione del fegato e quindi della produzione del fegato e delle vie biliari. Quindi questi due esami vanno aggiunti a quello delle transaminasi. Bilirubina e gamma GT, giusto? Sì. Essere e benessere. E sentiamo subito Angelo, che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Angelo. Grazie, buona giornata e diciamo anche buone ferie eventualmente. Noi, per noi ancora un po', ma insomma sì, buone ferie, facciamo un po' di ferie ogni giorno. Dunque diciamo che io faccio corsi di rilassamento e respirazione, però ieri sera mi è successo un particolare. Questa mattina ascoltando la radio per la rabbia, ieri sera io ho avuto paura che poi si è trasformata in rabbia. Essendo in autostrada c'era un camion che non so, ha sbandato e ha cercato di stringermi contro il guardrail. Ma in quel momento lì c'è stato due cose da fare: o fermarmi e essere rischiacciato o accelerare. In quel momento io ho scalato la marcia e sono passato. Ecco che dopo mi è subentrata una grossa rabbia dentro in me, che se non fossi stato in autostrada mi sarei fermato e avrei tirato giù quel camionista. Poi ho cominciato che magari a respirare. Era pure grosso, quindi meglio. In quel momento c'è l'adrenalina che a mille non c'entra. Allora, cominciando a respirare, ho cominciato a dirgli: sì, magari ha avuto un colpo problema. Di sonno. E allora ho cominciato a dargli delle scusanti, a rilassarmi, lasciarmi andare, e questa rabbia che avevo dentro l'ho lasciata passare. Ecco, però la mia domanda era questa qua: molte volte succede che dalla paura si va alla rabbia? Certo. La ringrazio. Grazie. Beh, molto spesso succede a noi, ma anche agli animali, no? Di solito il cane reagisce, gli animali reagiscono ferendoci anche quando hanno paura. Non so se lei è d'accordo, ma mi sì, sembra di sì. Spesso, cioè, se c'è una delle cause, in questo caso, di attività energetica del fegato, di dinamismo, di rabbia e di collera, è proprio uno squilibrio, una mancanza di stabilità psichica, che noi poi possiamo vedere anche attraverso le paure. Cioè, laddove siamo meno sicuri siamo anche più propensi a sfogare questa paura attraverso la rabbia. I corsi di rilassamento vanno benissimo, però non per tutti. Prima si faceva parlavamo della tipologia, così per dire, latina e quella british. Allora, io per esempio con i miei atleti, se ho un atleta latino caratterialmente, non vado a spesso a suggerire loro di fare attività tipo yoga e quant'altro, perché spesso questa tipologia ha bisogno di canalizzare questo eccesso di dinamismo energetico attraverso il movimento dinamico. Mentre la tipologia atleta o persona normale British, quella più zen o più contenitiva, è più predisposta a canalizzare l'energia della rabbia attraverso questo tipo di attività più statiche. È qui che mi rifacevo prima al discorso: un conto è canalizzare in modo dinamico e un conto è canalizzare in modo statico. Tra l'altro il dottor Maiola mi faceva prima un bellissimo esempio rispetto a com'è la differenza della canalizzazione di rabbia di quando uno in macchina e quando uno corre. Se voleva magari... No, nella pausa in realtà sottolineavamo questo aspetto sulla sua battuta del tipo chissà in macchina quante volte si litiga. In realtà sono aspetti che viviamo tutti i giorni. In macchina si è compressi, si è chiusi e si è seduti. Io faccio tanta attività fisica, mi piace fare le maratone. Dica che è un maratoneta, sì, mi piace. Lo dica. Su, perché... Aspettavo questo momento dall'inizio della trasmissione, ma in realtà non si litiga quando si fa una maratona, perché l'energia del fegato è canalizzata, è impegnata per l'attività muscolare. Allora l'aspetto muscolare che è utile per sfogare, canalizzare l'energia del fegato, che è fisiologico che ci sia, è fondamentale, così come gli aspetti che andremo a sottolineare dell'alimentazione o dell'uso di erbe che possono aiutarci a fare questo. Dottor Bertuzzi, e quindi al fegato, se fosse sempre una persona, sarebbe uno sportivo, e questo è un punto ancora in contatto, che è in comune tra la lettura della medicina occidentale e la lettura della medicina cinese. Sì, certo. Una volta che il paziente fa una regolare attività fisica, comunque ha tutto un assetto metabolico che favorisce uno stato di benessere e quindi di tutti gli organi, si traduce anche in una composizione dei grassi nel sangue che sicuramente favorisce il benessere del fegato, quindi anche in questo caso ci sono tanti punti in comune. Vogliamo rispondere ad un ascoltatore, anzi deve farlo lei, dottor Bertuzzi, il dottor Maiola. Che cosa significa? Quali sono le controindicazioni di una bilirubina alta? Perché il nostro ascoltatore l'ha sempre avuta alta rispetto allo standard, 4.2 rispetto a 2.5, mi scrive. Esistono due tipi di bilirubina, una diretta e una indiretta, quindi bisognerebbe capire quale delle due è alta, perché in un caso si parla di un problema del fegato, nell'altro si parla di un problema del sangue. È un dato importante, perché un valore di 4 è significativamente alto, quindi bisogna fare dei controlli per vedere appunto la causa di questo valore. Abbiamo parlato di fegato che si arrabbia e abbiamo parlato di fegato grosso e grasso. Per il fegato grasso è importante assolutamente l'alimentazione, e ancora qua di nuovo Occidente e Oriente si danno una mano. Dottor Bertuzzi. Sì, diciamo che le diete orientali, i regimi alimentari dei paesi dell'est, della Cina, sono ricchi di carboidrati complessi e hanno poveri di grassi animali, quindi in qualche modo potrebbero essere definite come quasi protettive nei confronti del fegato, quindi sicuramente ci sono degli elementi in comune. E dottor Maiola, lei aveva parlato... Sì, aggiungiamo nel linguaggio tipico della medicina cinese, China. Ossia esatto, dello yin e dello yang, che gli alimenti sono classificati come yin o yang, cioè rinfrescanti o riscaldanti. Come è facile immaginare, il fegato non ama molto i cibi riscaldanti, quindi quando parliamo per esempio di carni rosse, di insaccati, ma anche dei formaggi per alcuni versi, parliamo di alimenti che vanno a sovraccaricare l'energia del fegato, e quindi persone che hanno una tendenza ad essere collerici sarebbe meglio che evitassero il più possibile questa categoria di alimenti. Professor Tirelli, vogliamo chiudere in bellezza. Abbiamo parlato di fegato e quindi abbiamo parlato di energia, di vitalità, di canalizzare la rabbia e tutte quelle emozioni negative che dobbiamo comunque, che ciascuno di noi sperimenta, che dobbiamo guardare e osservare. Le do un minuto ci regali un consiglio, un punto magico per da massaggiare o da digitopressare nel weekend. Allora, c'è un punto bellissimo, si chiama vescicabiliare 34, è armonizzatore di tutti i muscoli e i tendini del corpo, indipendentemente dal luogo in cui noi abbiamo il dolore. Prendo le mie mani e le appoggio sulle parti laterali delle mie ginocchia. Sentirò un ossicino spuntare, si chiama testa del perone, ok? È quell'ossicino che spunta sotto, appena sotto il ginocchio, lateralmente, e sentirò anche delle depressioni o davanti o dietro, va bene in tutti e due i modi. Col dito indice provo a premere più volte per circa un minuto in senso orario e antiorario e sentirete immediatamente un effetto benefico a livello generale muscolare e tendineo. È veramente un punto bellissimo perché tende a rilassare e armonizzare la muscolatura e i tendini. Consigliato a sedentari, sportivi, a pacifici, arrabbiati, grazie al professor Tirelli, al dottor Maiola, al dottor Bertuzzi. Noi ci sentiamo lunedì, ma sorpresa, possiamo anche sentirci domenica alle 12, proprio a mezzogiorno in punto. Grazie, buona giornata. Essere e benessere.